parte, si fa sul posto, si scende il cavo e si intesta di lì, così non è problemi di isolare niente. Sì. Oh, vabbè, non so se... Ma poi praticamente questo vuole siliconata, vuole isolata, giusto? Tutta così chiamata e tutta fatta, è giusto. Andabex, va bene. Che voce da cantante che ho quando mi sveglio, porca miseria. Sì, e a voi. Oh, che si riserve non ti fa bene nulla. Avessero voluto una volazione come quella che ho io. Ola, senti, ola. Neanche Porto Reali ti assomiglia. Oh yeah. Che la vuole cantava? Che idea. Forse ti assomiglia un po', Gavi, quei tenori che sono entrati. Che idea, quale idea? Ragazzi, ci sentiamo dopo, dai, sto uscendo. Va bene. Comunque secondo me stai già un 48 tu, eh? Tu stai già un 48 con le coccole. Hai abbassato l'eco e tu stai già non hai un 48 da camionaro per rutta. Va bene. E ci sentiamo dopo, Tino. Vai fra di qui. Sì, ma questo fatto che si è spento non mi piace invece. Va bene, a dopo, ciao. Ciao a te. Quella è l'alimentazione. Lì ti sta mancando il diviglio, a lui gli è mancato il positivo. È andato a spegnersi la radio. Qualche cavo mollato, qualche cavo mollato lui. Cacciavite e i trigni vocci, cacciavite e trigni del forte. Sanremo, Franco, Sanremo, stanotte l'ultimo, oggi è l'ultima serata e poi... anche da lunedì devo lavorare lo stesso, neanche se c'è Sanremo devo lavorare lo stesso, quindi lo sai. Guarda, per me, per quanto mi riguarda, ti posso dire che Sanremo potrebbe essere anche potrebbero fare anche l'ultimo, questo, e non farne più. Per me possono anche buttargli una bomba a quel teatro, non mi cambia la vita. A me non mi cambia la vita né Sanremo, né le partite, né la Formula 1, a me non mi cambia la vita queste cose qua, capito? Non sono cose che mi cambiano la vita, che non mi fanno dormire. Dice, mi è morto Savoia, molto visto di Savoia, lo diciamo, Alfredo, Caretta. E che ne so io, calamai con i scelti. A me, niente di particolare. Per me è morto uno normale, una persona. Ah, non lavoravate assieme? non avevo se ne aveva via. Non avevo gana di travagliare su là. Oh, yeah. Per carità. Dice, l'altro giorno una bassona mi ha mandato un messaggio, di quei messaggi stupidi. Morto Emanuele Filiberto di Savoia, ha già scritto un casino, dopo un mangio. Da voi non mangi, e poi Runi deve andare pure a travagliare. Per carità, gentaccia, gatta, ma gentaccia veramente quello. Ma chi sì, io ho capito quelli cosa hanno, non hanno, quelli non hanno fatto niente dalla mattina alla sera. Cioè, non lo so, cosa sono reali, cosa sono? Saraghi reali. Cosa ne so io? Vedete che era un re d'Italia, cosa cavolo era, cosa ne so. Questo dice che ci avevano tanti beni a Torino, perché lui mi sembra che era di Torino proprio. Però lo Stato aveva sequestrato tutto. Chissà bagosa. Allora voi dov'erano in Francia, non mi ricordo dove erano, e poi sono tornati in Italia. E sono stati... Ma come a Berlusconi hanno invato tutto il vulnerale che soffende il baghito manco di Gardena. Un re era. Berlusconi non era re, no. E questo l'hanno mandato, l'hanno esiliato dall'Italia, capito? Lo stato italiano. L'ha esiliato, chissà che cosa cavolo ha combinato. Prima stessi lo qui di travaglia, mi dato già è dove Berlusconi. Vedi. E purtroppo, è così. Sto dicendo. Berlusconi ha creato posti di lavoro e ha mandato avanti famiglie. Ghiccio, secondo me, non ha fatto manco la famiglia sua, è riuscito a mandare avanti. Ma che dai, che gentaccia, guarda, è uno schifo. Chissà i soldi che prende dallo Stato questo qua. Ma dallo Stato non penso, Aspetta. Okay. Dallo Stato non penso che ne abbia di no, però già tanto bari dai arricchi di sé, io. Berlusconi era un uomo da mirare, perché ha dato da mangiare migliaia e migliaia di famiglie, ha dato da mangiare e sta continuando il figlio a dare da mangiare molta gente. Poi Berlusconi è nato a niente. Berlusconi è nato dal nulla, era figlio di povera gente, cosa pensi? Lui già se l'ha creato veramente il benessere. La gente dice faceva parte della mafia, faceva parte quello, tutto visto che vuoi. Tutto quello che vuoi, faceva parte della mafia, quello bisogna sempre vedere. Dice andava a donne e faceva bene, non è che faceva male. Se andava a France invece faceva schifo, se andava a donne ha fatto peccato, e ha fatto bene, si è andato a femmina, lui ha sempre, è un uomo che ha sempre lavorato, ha fatto lavorare e ha dato tanto lavoro, ed era una persona rispettata in tutto il mondo. Quando dicono che faceva parte, era mafioso, tutto questo, tanto la gente mangiava e la gente mangiava, e invece adesso sono ancora più mafiosi e non mangia neanche la gente, perché il lavoro non c'è. Era una forza politica, una forza in tutto. No, questi quattro schifosi si distruggi, non posso dire parolacce perché magari c'è qualcuno all'ascolto e non va bene entrare a casa degli altri per dire parolacce, però più tardi la dico, sì, perché adesso non c'è poca gente, più tardi dirla che c'è più pubblico. Sì, infatti più tardi dopo c'è. Cosa sono questi politici? Non lo so. Tragiti, camane, tragiti, cosa sono questi politici? Cosa so? Cani magnatori, bravo. Ecco cosa so. Sono cani magnatori, stanno rovinando l'Italia. Qualcuno è in cerca anche di voti, queste cose qua, e non si avvicina. Perché li bestemmio, bestemmio forte, bestemmio in faccia, poi facciano quello che vogliono, non mi interessa. Il fatto è che una volta le famiglie riuscivano ad arrivare a... Quando l'Italia era degli italiani, le famiglie riuscivano ad arrivare a fine mese e gli avanzava anche qualcosa, perché la briciolina, la donna, diciamo, la padrona di casa, che era la donna, che stava a casa, che aveva i soldi in mano, riusciva a mettere qualcosa da parte, e uno arrivava dopo 3-4 anni, trovava qui 15 milioni, 20 milioni, che riuscivano a prendersi magari un appetto di campagna, una cosa, lasciarle i figli. Adesso le banche, se devi comprare qualcosa, ti chiedono quello che magari i tuoi genitori sono riusciti a mettersi da parte in 40 anni, capito? Perché le banche sono dei ladri autorizzati dallo Stato. Ecco cos'è la banca. La banca è perché oggi non le puoi fare a meno, altrimenti anche il conto corrente bisogna chiuderli, bisogna tornare ai vecchi tempi, i soldi sotto i mattoni. Ma se hai notato, hanno fatto una legge che non puoi neanche fare questo. No, io li chiamo parassiti, ma chi sono parassiti? Perché quella gente vive da sopra le spalle dei poveri, vivono, e più che parassiti non può essere. Perché ci vorrebbe una bomba, la bomba risolve un po' di cose, o la bomba o una bastata di Kalashnikov, vede Hutta, i tifosi delle squadre di calcio invece di andare a fare casino negli stadi, si riuniscono la domenica e vanno a fare casino a Montecitorio, e poi tutti quelli esaltati che hanno una passata di Kalashnikov, bella, 20, 30 Kalashnikov, 40 Kalashnikov, a mitraglia, ma fa male, e va dai, ribassano macchine. Adesso a questi detrattori stanno manifestando, sì, c'è come il coso dell'A, uguale. Adesso gli danno il contentino, gli danno questi mesi, gli stanno già togliendo il coso dell'assicurazione del trattore per 6 mesi, l'IVA non so cosa, e gli danno la caramellina e si gagliano la muta. E fra 2 anni siamo beggiù. Non lo so se si stanno zitti con la caramellina questa volta, non lo so, magari in Italia, ma gli altri, i francesi, i tedeschi, non penso che la contenti con la caramellina. Ma secondo me battono ritirata, prendono le prefetture, iniziano a dare ordini di sequestrare trattori e a mettere le manette a qualcheduno, l'altro si piglia e si assustano e tutti a casa, forza. Stanno, non vogliono fare questa cosa qua perché la politica non vuole arrivare a questo, però adesso vedrai che se sgarrano e fanno qualcosa che non devono fare questi manifestanti, qualche prefetto si discenda e dici fa una cosa, inizia a arrestare qualcuno, a sequestrare qualche trattore, a trovare qualche cosa che non va. Come ti vede, mi sto sequicendo, gli ha 50-60 trattori tutta Italia, allora pigia e verra e si innanda, coda tra le gambe e ciccia, perché così mi fa. Ma è lì che devono combattere, tanto già me la immagino davvero io, tanto già vedo la immagino davvero che fa la guerra. Ma purtroppo non ci sono più quelli di una volta. Purtroppo non ci sono più quelli di una volta, gli uomini di una volta. A me io ti posso dire una cosa, perché in questi casi io sono me ne freghista. Quando c'era il mio settore in crisi, nel lockdown, a me non mi ha supportato nessuno, capito? Ho avuto nessuno, perché i primi sono stati gli allevatori e i contadini a dire che il nostro non era un lavoro vero. E quando gli operatori dello spettacolo non ricevevano nessun tipo di contributo dallo Stato, a Milano si è andati con tutte le bauli a battere, a fare. Loro, i contadini, dicevano che l'operatore dello spettacolo non era una voce, ma non c'è gente parlando, no? E a chi E a chi tutto, a voi, se cosa è un travaglio vero. No, Rudo è un travaglio vero. Adesso lo vedi? Lo vedi cosa succede. Non bisogna mai, mai, mai criticare nessuno. Perché un giorno tocca a me, l'altro giorno tocca a te. Adesso ti arrangi. Adesso ti arrangi. Hai visto cosa succede? Non bisogna parlare così. Però fra, quando è servito a me nessuno c'era. Adesso non ci sono io per loro. Io la roba me la coltivo. Attenzione, io piglio me la coltivo la roba. Non ve ne è problema. Ecco, poi c'hai ragione, c'hai. Perché ci sono passato anch'io su quelle cose. Che quando facevano sciopero gli altri lì giù, già sai dove, era a Petrochimico. Tutti i gatti, chi si intende a travagliare, lì e là, e noi non vi traziamo per farli aiutarli, no, più tanto. Quando un anno è capitato che noi perdevamo le giornate, tutto perdevamo. Ma dai, poi da poi di tant'anni è successo a noi, abbiamo fatto un poco di sciopero, tutti in treno a travagliare. Dice, ma voi siete una cooperativa? Noi siamo una cooperativa, in esita. Come hanno tornato a fare sciopero, però cosa ti è passato? Bogo ti è passato la licenziazione in chi c'è la ditta, di terna. Dici, non faccio dire, no, a casino viene andata. Infatti è quello. Infatti è quello, adesso se ne vanno a casino loro, adesso si arrangiano, perché noi abbiamo passato le pene dell'inferno, ma io fra, guarda, noi abbiamo passato veramente le pene dell'inferno. Dizi, voi c'ho chi un travaglio vero, No, le venne tu come 24 ore in cura, le venne tu 24 ore a drumiti, ma dasa figli. Già, adesso voglio vedere cosa fanno loro. Noi ce l'abbiamo presa, ce l'abbiamo cavata in silenzio. Noi ce l'abbiamo cavata in silenzio, leccandoci le ferite e andando avanti. Adesso voglio vedere a loro cosa fanno. A me non me ne frega niente. Io parlo per me, per la mia famiglia. Io posso prendermi, me la posso coltivare la roba. Non ha problemi, io bongo un socco di ogni cosa e ando ad avanti. Eddi non un socco. Purtroppo è così. Fra. Guarda che punto siamo arrivati ad essere menefreghista uno dell'altro. Adesso si arrangiano. Succede così, capito? Purtroppo. Alla fine, da voi, uno pensa a passare stesso. Sì, a me che me lo fate va a passare guai, va a paeti. Tanto da voi, succede come hai detto tu, e poi dopo qui prendono e... Se invece qualcuno si avrebbe tagliato la lingua, no? Allora, come pensa la cosa, ma non dilla, no? Perché potresti fare solo danno. Invece guarda, a molti settori si era parlato in questo modo, che molti settori, il settore dello spettacolo, l'edilizia intanto era ferma, perché coso, come niente di zì, e se si ferma l'edilizia si ferma tutto. E infatti i gasi mi sono vendendo assai, mi sono vendendo un bel i gasi. E stanno costruendo molto. Eppure la gente, io pure vedo chi deve andare in vacanza e chi deve andare in crociera ci va. Purtroppo è così. L'edilizia prima era così, adesso l'edilizia è devi pigliare, devi buru. Mi sono sentito a Becamuri, non sono nato a Becamuri, quindi. Ditte nate per il 110%, per questo 110%, poi mi sono nati oggi e domani erano i danni cantieri, l'edilizia non va avanti, basta lavorare bene e non fai imbriaci, lavori bene e non fai pasticci, come si lavorava una volta, e allora l'edilizia va avanti. Ci sono, sì, vai, riprendi. Vabbè, ho seguito parte del discorso, però Gavino, sappi una cosa, spesso lancia a favore dei muratori, di quelli che lavorano male, più che altro, per il semplice motivo che tu, quando fai una cosa e la fai bene, ti dura una vita. Purtroppo oggi hanno preso il piede di farla male, per il semplice motivo che così continui a aggiustarla tu. E così con tutte le cose, con i televisori, con le radio, con i divani, con i tavoli, con tutto quanto. L'era del consumismo si chiama. Sì, è vero, ma quello è scontato, sì, quello è scontato, perché io ti ripeto, il muratore l'edilizia comprava, ora di consumire, fino a 20 anni. Ormai non c'è più chi sia lavorato, cioè poche sono le vite che ti fanno il lavoro fatto bene, poche, perché si vede, si sente che ci sono muratori, ma non parlo di muratori, sì, ma ti parlo anche di elettricisti, macellai, a voglia, niente, improvvisata, si vuole fare un travaglio, ma anche nel settore dove sono io, asini, calzati e vestiti, che si reclutano tecnici, che poi non sanno neanche da dove si parte per la polvere del cavo. E poi fanno tutto il mondo, con la polvere del cavo, ma non si un bel casino, purtroppo oggi serietà zero, ognuno fa quello che gli piace, sembra un mondo andando e finendo, più violento e tutto. È vero, anch'io molte volte vedo determinate persone fare lavori così all'embreccio, e una volta mi sono permesso di dirle anche, ma scusa, ma perché non fai bene questa cosa qua, ma perché tu sai quanto mi danno a me per fare questo lavoro qua, e a prescindere da quello, però voglio dire, mettono, no, è sottopagato, lo faccio. Questa è stata una risposta da una persona che prima non lavorava così, infatti mi sono permesso di dirlo perché lo conosco da tanto e insomma, sapevo che lavorava bene. Adesso sta lavorando, per modo di dire che sta lavorando, per quanto lo pagano. Tu mi paghi bene, io lavoro bene. Tu mi paghi male, io ti lavoro male. È brutto dirsi, ma è così, Gavino. Sì, io per professionalità mia e per orgoglio mio personale, io non lavoro così. Perché se tu a me mi dici no, fallo male perché no, là te lo fai, ma là ti licenza, io non te lo faccio, io lavoro, tutti siamo umani, tutti possiamo sbagliare, l'errore ci può stare una volta, non due, tre volte, quattro volte, cinque volte, perché altrimenti tu non sei un operaio finito, no? Allora io prendo un manovale. Ma non vale, ci sono persone, ci sono operai specializzati, no? Che sono peggio dei manovali, perché il manovale è un collaboratore, capito? Cioè collabora a mandare avanti, cioè alla buona riuscita del lavoro. Io che sono il qualificato, mi serve un collaboratore per aiutarmi a fare al meglio la mia mansione. Ci sono degli operai specializzati che fanno schifo, che sono imbarazzanti, che è imbarazzante vederlo lavorare. Però non fanno pietà, e quelle sono le persone che ti fanno perdere mette nel coso matricolare, come si dice, nelle coso matricolare, come si chiama, incapace, proprio incapace, asino e incapace, non sei, proprio fine. Vai, scheda anagrafica, bravissimo, scusami, scheda anagrafica, sì. L'avevo scritto nella scheda anagrafica, muratore, tra parentesi, incapace, oppure meccanico, tra parentesi, incapace, più buon a nulla. Vai, Franco. Quelle che di solito ci sono in giro. E poi si credono, soldi già te ne chiedono, poi si credono, sì, chissà cosa, ma la lascia perdere, voglio dire. Vabbè, dai, questi muratori così di evadozzi non valgono niente. Allora dico una cosa, la professionalità secondo me va pagata, poi se vuoi fare un favore a un amico che gli chiedi un determinato prezzo perché sei amico, ci sta. Ma tu non vuoi fare un preventivo, perché la gente è convinta che ormai il muratore deve prendere, esagerando, 80-90 euro. Ma se io te ne chiedo 120 perché so che valgo così, e tu mi dici, incatta, ma con Roma lo faccio a fatelo, va. Cioè fatelo fare senza problemi. Io voglio tot perché so di fare tot, so cosa devo fare. Purtroppo però trovi tante persone che non accettano il tuo preventivo per il semplice motivo che in base alla mondezza, tra virgolette, tu sei troppo caro. Sì, no, quando ero in Sicces, quando io lavoravo ancora in Sicces, si sono accorti che convenivano a ora chiamare più i saldatori rumeni. Però con l'andare del tempo questi saldatori facevano più riparazioni, capito? Perché loro venivano, il lavoro veniva quantificato a metratura, no? Di saldatura che si faceva. Loro, per esempio, facevano 20 metri di saldatura a notte, 12 erano di riparazione, quindi il giorno dopo bisognava scriccare tutto, rifare gli smussi e poi fare di nuovo, cioè in pratica quei 12 metri di saldatura, cioè quei 20 metri di saldatura venivano raddoppiati per 4 giorni, invece di farli in una notte, ti portavano via 5 giorni di lavoro. Facendosi bene i conti, a loro gli conveniva pagare più 3 saldatori qualificati italiani che sapevano lavorare piuttosto che 10 di loro, perché 10 di loro facevano disastri assurdi. Ma non sto parlando, io adesso la sto mettendo sulla mano d'opera, è il materiale per scriccare, per smussare, di nuovo per saldare, perché elettrodi, arco sommerso, filo continuo, c'era di tutto. Quello è perché un saldatore italiano chiedeva 18-20 euro a ora e loro ne prendevano 9, 10, 8. In base hai anche la qualità, perché un saldatore ti fa 20 metri di saldatura e 20 metri sono idonei, e devi vedere i 20 metri, quindi hai 12, 14, 13 di riparazione, era tutta riparazione, più altri 5 giorni di lavoro per aggiustare il pezzo. Vai, Franco. Secondo te cosa ci ha risparmiato il datore di lavoro? Non ci ha risparmiato niente. Nulla. Però ti ripeto, è tutto un ricchio, perché quando tu vai a fare un preventivo loro sanno già la tua tabella di marcia, che allora per ingaggiare questa camera, allora tu ci metti un giorno, poi ti fai quello stesso cazzo un altro giorno, quindi in 3 giorni è finito. Ma cazzo, cosa vuol dire in 3 giorni? Io finisco quando dico che ho finito io. Se la vuoi fare una cosa ben fatta, Se no, troppo sopra anche mezza giornata. Esatto, esatto. Prendi e... perché loro guardano i tempi di lavoro, però non guardano i tempi, diciamo, di azione. Io non sono muratore, quindi non posso prendere, non posso quantificare in quanto asciuga il cemento, in quanto asciuga il collante, in quanto asciuga la pittura, perché non me ne intendo. Però io credo che anche il cemento abbia il suo tempo di essiccazione, lo stucco abbia il suo tempo di essiccazione, e non può essere una giornata un pochino umida. Il cemento invece asciugare ipoteticamente in 3 ore ci mette 4 ore, 5 ore, ed ecco che il giorno dopo non puoi continuare a lavorare. Almeno io non sono muratore e non sono pratico, io ho fatto un esempio, vai Fran. Sì, è vero, perché chi solo muratore può quantificare tutti i tempi. Noi, già, io ho lavorato per la petrochimica, tu se fai un lavoro che vai, è naturale che non riesci a quantificare. E poi ci sono anche quei muratori che ti volevo dire poco fa, quei muratori, Tino, che ti fanno il preventivo, tu glielo dai, e a lui, come ti dici, i padri sono sempre bugiardi, esistendo di cose, aspettando e bruciando ore di tempo che tu dovresti produrre e non l'hai prodotto, perché e tutti i soldi persi per chi? Per il proprietario dell'appartamento oppure dei lavori che ti ha dato. Fra, la dico una cosa, io in base al mio bagaglio di esperienza ti posso dire anche una cosa. Adesso voi, chi è che non è mai imbiancato a casa? Chiunque è imbiancato a casa, no? E sono convinti che per dire tra una mano e l'altra, dopo un'ora, 2 ore, la seconda e tutto va bene. No, non funziona così. Non funziona così perché, detto da un esperto e da uno che fa la tinteggiatura oramai da, vabbè, credo che oramai non ne faccio più, però ha una sorta di 60 anni di esperienza, per giunta vendeva anche queste cose qua, tra una mano e l'altra ci vogliono non meno di 4 ore per via dell'asciugatura della vernice, ma non per il semplice motivo che tu devi aspettare per forza, perché se tu gliela dai prima, praticamente la prima che gli hai dato, la seconda gliela stai togliendo, praticamente come che ne hai dato solo una mano, e quindi non aderisce come dovrebbe fare. Quindi una persona molte volte dice che fa una canna, ci vuole un'ora avanti, però non te la posso fare subito dopo la seconda mano, ti faccio altre stanze, e così nel frattempo ha maniera di asciugare bene quell'altra. Però molta gente dice in un giorno te ne fai domani, che se va bene, e bisogna vedere com'è, perché se devi fare sotto, sopra e negli atti ha bisogno di asciugare. Se ci metto per dire 3 ore a fare una stanza, ce ne vogliono 3-4 per asciugare, la durata è finita. Sì, Tino, questo lo capisco, che io ho un cognato che è pittore e decoratore, proprio di professione, e lo dice anche lui quando viene qua a casa a imbiancare a casa mia, perché lo fa sempre lui, e diciamo, oggi sta otto ore facendo, per dire, tutte le camere, tutto il giorno, e l'indomani viene dalla seconda mano. Certo, però molta gente queste cose non le sa, sono dopo l'evento. Non puoi dare subito dopo il fino, perché il cemento ha bisogno di asciugare, se no dopo spacca, tu non lo sai, ma è così. Sì, no, vabbè, noi non lo sappiamo, Tino. Un muratore dice, vuol dire vi dovrò andare. Bravo, c'è gente che purtroppo lavora così. È brutto dirsi, però oggi, i prezzi che ci sono oggi, siccome il mercato è troppo ampio e uno cerca sempre di avere per tante cose, si è sforato. Io non... No, avanti, un falegname, quanto ci metti a fare una porta? Fai che ci metta, che ne so, un giorno. Te la faccio in grandi linee, Ci metti un giorno. Sì, io non ti posso promettere che in un giorno te ne faccio due o tre di porte. Perché se ci vuole un giorno per fare una porta, non posso aumentare la produzione. In un giorno. Se fai tre al giorno, allora dopo cosa succede? Succede che non torna più come una porta, torna tutta svasata, è tutta fatta male. E va bene, però la produzione, molta gente vuole la produzione, però la produzione è fatta male, è così. A me molte volte il mio datore di lavoro, ma non si è più permesso di dirlo perché ormai mi conosce, no? E molte volte mi dice, Tino, quanto ci vuole a fare questo? Il tempo che ci vuole. Certo, rimane così, ho capito, mi ha detto, bravo, ciao. Certo, è proprio così, il tempo che ci vuole. Perché a noi cosa ci dicevano? Ma quanto ci metti a caricare un mezzo? Quello che hai detto, me lo devo anche cercare. Se tu ci metti una persona a cercare il materiale, che io vado, lo prendo e carico, ci metto molto di meno, però se me lo devo cercare, me lo devo spuntare, me lo devo caricare, al posto di metterci un quarto d'ora ci metto un'ora. Vabbè, ma tu stai già andando in un posto dove sai dove il materiale e dove cercarlo. Io che faccio uno scafo, soprattutto io ti parlo in un paese avanti, adesso fra un po' dovremo venire anche dalle parti tue. Cosa ne so cosa trovo sottoterra? Se tu mi dici, da fare, che ne so, 10 metri di scavo, sì, 10 metri di scavo, da dove sia, ci metti un attimino, ma io devo cercare anche, se trovo qualche tubo, perché se metto a scavare scavo, ma non c'è niente, però se vuoi che non fai danno, devi stare anche un pochino attento al materiale che c'è sotto, perché in base al materiale tu potresti capire se trovi il gas, se trovi la fibra, se trovi l'acqua e così via, capito? Tu pensa che sono andato a fare un lavoro ai Tiredu, l'ho fatto io il danno, ho appoggiato la benna, in 10 cm di scavo ho trovato il tubo dell'acqua, ho detto, c'era anche il sindaco, ho detto no, scusate se, ma non credo che sia una cosa normale trovare un tubo d'acqua a 10 cm dall'asfalto. A 10 cm? Assolutamente tutte le utenze sono 60 cm, ok? E poi prevale la linea elettrica che è a 90 e così via. Cosa puoi trovare a 10 cm? Nulla, perché tu di l'asfalto hai già 10 cm di scavo fatto, era sopra, aspetta, bel lavoro hanno fatto questi qua. Però visto là, il primo giorno che sono andato ci ho fatto danno, ma era un allaccio di una casa e vabbè, abbiamo chiuso con le manichette che sono nella strada, abbiamo interrotto la linea, praticamente solo la linea lì e basta, l'abbiamo riparato in 448. Ma ti capita di trovare queste cose qua? Perché solitamente, allora ti spiego in 448 come avrebbe fatto il lavoro, fra lo scavo di almeno, che ne so, 60 cm, ok, ci metti la sabbia e fai il piano di posa, ci vuole il tubo, metti il tubo e ci rimetti la sabbia per 20 cm e poi ci metti il materiale del riporto e poi è finito così. Se poi vuoi andare bene, dopo il materiale del riporto ci metti anche il nastro per identificare cosa c'è sotto. Questo lavoro qua non lo fa più nessuno, ormai loro fanno lo scavo, magari se, anche scavando, se recuperano di quota, anziché 60 lo fanno a 40, loro quei 20 centimetri, cazzo, sai quanto stanno guadagnando in giro di lunghezza? È solo da quello, e se non mettono una sabbia ancora di più, quindi loro non ti calcolano neanche quello, e renderò direttamente così, quindi tu quando vai a scavare non trovi il segnalatore, come lo chiamiamo noi, se c'è qualche cosa per segnare il tubo, non trovi nel nastro, nella sabbia, quindi è logico che lo tranci, a meno che sei uno un po' esperto, vedi un po' di materiale rimosso, ti accorgi che c'è stata una cosa da riporto, allora lo cerchi piano piano, Però voglio dire, tutte queste cose qua non le fa più nessuno, Franco, ma per via del pagamento del lavoro. Sono entrato, eh? Capo. Pagamento del lavoro, pagamento del lavoro. Uno che fa il lavoro, che fa un preventivo, che gli danno il lavoro, vuol dire che deve farlo come si deve. E poi, capita, Zigidu, trovagli anche la saldura, non lo so. Però io penso che le aziende che fanno questi lavori qua, come la tua, quando va a fare un lavoro fa un contratto e quel contratto lo devono rispettare. Poi ti faccio capire, ragazzi. Il problema, ti ripeto, è sempre i soldi. I soldi perché... Ma te lo dico apertamente, anche questa strada che sto facendo io, sono 3 mesi che sto lavorando io, ancora i geometri e gli architetti e gli ingegneri non mi hanno dato una quota per la strada. Stavo iniziando a fare, è venuto il giorno, abbiamo tirato 4 quote e praticamente devo mettere dalla strada esistente per fare un collegamento dal Conti sino al tappetino, già l'hai vista tu quella strada lì, praticamente ci vuole roba di 2,80 metri di rilevato. Ho detto, ma stiamo scherzando, 2,80 metri di rilevato, sono le pietre per alta la strada, poi sotto una livelletta. Ho detto, ma stiamo scherzando, geometra, ma è vero che stiamo ragionando così o cosa? Ma è vero, sì, da progetto così, da progetto, ma se non dai conto cosa vuol dire 2,80 metri di cosa, che qua ci vuole un muro di calcestruzzo, di muro di contenimento minimo da 4 metri per detenere tutta questa roba qua col piede pure, ma ci guardiamo bene queste cose. È da rivedere, ah, è bravo. Vai, Gabri, vai. Tutto da rivedere, perché poi quando loro lo sai cos'è T anche, adesso io non so che età abbia questi giovani, però c'è molta gente che esce da scuola e va a lavorare geometra, senza alcuna esperienza sul campo, ma questo riguarda tutti, perché ci sono anche periti elettronici, ci sono elettricisti che escono da scuola e vanno a fare capocantieri in certe situazioni importanti, e magari c'è quello che ha 20 anni, 30 anni di esperienza e poi insegna come va fatto il lavoro, perché capita anche nel mio settore che escono dei ragazzi a scuola e vengono e vogliono, ma non con noi, con strutture di fuori. Ma questo va fatto, ma non lo posso fare così, perché però vorrebbe torra, allora non lo posso fare, perché poi glielo spieghi in maniera professionale. Dai, allora vediamo un po', vi do carta bianca, dacci la carta bianca. Quello è la stessa cosa è da rivedere. Cosa devi vedere? Cosa vedi a vedere? Chi uno magari è vincantato. Tu, scusa, fratti, faccio dopo, ti rilancio il mic. Quanti anni sei, Tino, che fai quel lavoro? Ma io sono da lontano 90, 91. Ok, sei da 91. Quindi ci vuole, che geometra ci vuole a te per insegnarti quelle cose? Ma guarda, io ti faccio una cosa stupida che mi era successa lavorando all'ortobotanico. Mi chiama il geometra alle 7 del mattino, ok, e l'altro geometra mio lo stesso, ma ho detto, dobbiamo andare, sono già in cantiere io, alle 7 e mezza ero già operativo. Ah, sì, già lì, sì, sto aspettando a voi. Perché sapevo che avevano fatto delle cazzate. Questo giovane tra qua, che doveva mandare avanti i lavori, mi fa, lo sai che abbiamo fatto un bel guaio, Tino? E tu hai proprio ragione, dove è successo? Qua c'è questo guaio, cos'è? Eh sì, questi pozzetti vogliono tutti abbassarti. Mi sono messo a ridere, gli ho reso in faccia per dire che sei salvato in ufficio dalle 8 del mattino sia alle 5 di sera, come pretendi che mi dici cosa devo fare? Ho detto comunque, facciamo una cosa giovane, si piazza il livello, che io mi piazzo il mio. Mola della favola, si piazza il livello ed era quello elettronico, non so se voi lo conoscete, quello che praticamente gira attorno a se stesso, no? E tu con una staglia piccolina devi alzare, abbassare e vedere, misurare la quota, che lo facevano con un metro a mano, quindi quando era fisso il rumore misuravano. Ho detto lei ha finito di misurare, sì, adesso misuriamo col mio, si prende la staria, ma più così ho detto si prende la staria, che io leggo, gli ho letto le cose, com'è? Va bene, è giusto, e allora perché non ce lo butta quel livello che ha? Lei deve controllare le cose col livello che controllo io, col lavoro che ho fatto io, deve prendere il mio strumento, non il suo, che non vale un cacchio, gli ho detto. Ho girato le spalle, me ne sono andato, e se adesso per 3.000 vedendo sotto i baffi, e a mancomare, quindi. A volte sì, bisogna, non è perché escono, perché loro hanno un titolo di studio, ma questo discorso è per tornare al muratore, non al muratore, in qualsiasi campo che noi vogliamo andare a farlo, non a esaminare, perché noi non siamo tecnici, non siamo esaminatori, no, perlomeno io sono un tecnico audio qualificato, quindi io sono un tecnico audio, non siamo tecnici in tutti i settori che vogliamo, diciamo in tutto, almeno siamo tecnici nel settore che riguarda noi. Prima c'era un altro modo di fare, come che uno prende, va da Franco e dice no, guarda, le pianelle devi caricarmi bancale in questo modo, oppure devi caricarmi, perché io queste cose le so perché quando ero in Sicilia ho fatto molti corsi sulla sicurezza, molti corsi di carico, come quello che mi dice no, mi devi caricare, voglio questa spettonatura. Sì, va bene Franco, ce la riascoltiamo dopo. Voglio questa spettonatura, che ogni bancale pesa, cosa ne so, 20 quintali, la voglio dietro perché deve scendere per primo, e questa spettonatura che pesa 12 quintali la voglio davanti. No, lui deve essere chi carica, e soprattutto l'autista del camion, se è uno con esperienza alle spalle, dice no, caro geometra, caro ingegnere, caro qualsiasi persona tu sia sopra di me, superiore a me nel mio lavoro, io questo carico non lo accetto perché il baricentro del rimorchio non è bilanciato. E poi succedono le cose, bisogna, e di lì si vede l'esperienza dell'operaio. A volte è capitato di caricare dei tubi, caricare delle lamiere, capocantiere, no, mettiamole in questo modo, no, non le mettiamo in questo modo. In questo modo le mette lei o le mette chi per lei è idoneo. Io in questo modo qua non le metto. Poi ti chiedeva il motivo, ti chiamava in ufficio, perché questo, per questo motivo qua. Va bene, se lei ha ritenuto opportuno caricare in questo modo, che sia fatto così. Capito, sì, a volte le osservazioni vanno fatte, eh? È fatto bene. Vai, sì, Franco ha lasciato, diciamo, ha fatto un po' di, deve fare un po' di bianco e riprenderà dopo. Lascio un attimo di bianco per vedere se vuoi entrare a salutare, poi se non rientra riprendi. No, aspetta un attimino, ti voglio solo dare un appunto. Chi comanda, chi carica gli articolati, chi comanda è l'autista. L'autista ti deve dire come vuole il carico, se vuole il carico pesante al centro, se lo vuole davanti o se lo vuole dietro. È l'autista che comanda. Poi il carrellista deve fare come dice l'autista. Nessun altro ci può mettere mano e parola su quello. È l'autista che comanda il carico. Ci sentiamo dopo. Sì, ciao Franco, sì, ha ragione Franco. È l'autista che deve... No, ma io do un discorso con Cassi, capì? Me la sono sgavata dal giorno prima, nel senso che siccome loro hanno sbagliato la pendenza della strada, perché dovevano giuntarsi con la strada principale praticamente, cosa hanno fatto? Il giorno prima hanno tolto tutte le cordonate, siccome io stavo lavorando lì, mi ha detto cosa cazzo si offende, adesso vedrai che ci diranno cosa per i pozzetti, però il pozzetto, io mi ho preso un punto particolare, l'ho segnato anche, avevo un punto fisso io per prendermi le quote, quindi loro possono rivoltare sotto sopra tutto l'asfalto che vuoi, però il mio punto fisso era quello. E quindi ero sicuro di me, perché me l'ho controllati, guarda, proprio per non fare brutte figure, perdevo 10 minuti di sera, per 10 minuti di tutto il giorno, però poi sei sicuro di quello che stai facendo. E ogni giorno, per dire, ne piazzavo uno, e tasco fa, controllami come va a vedere, controllami quello, eh? Io sempre sul livello, quindi sapevo cosa stavo facendo. E avevo messo un punto fisso, però loro abbassano queste cordonate e praticamente tu sei benissimo, no? Se tu abbassi la strada e mi metti il punto fisso nella parte più bassa, è logico che cambia dalla parte più alta. E io ho fatto fare a lui, gli ho detto allora, cioè, facciamo una cosa, avete considerato che voi avete sbagliato, perché avete sbagliato voi, e gli puntavo il dito in faccia, avete sbagliato voi con le quote della strada, il mio punto fisso è quello lì, metta la strada lì a vedere. E metto perché lì, no? Io metto quel no, lì la deve mettere qua, perché voi mi avete detto questo punto fisso, non il punto fisso che avete fatto voi il giorno prima, il giorno di vabbè, avanti ieri, quando era, se non ricordo, quando l'ha detto. Metto va bene, mettila lì la strada, mettila lì, stavo facendo un po', perché gli puntavo sempre il dito in faccia, siccome questo qua era un ragazzo, insomma, un po' più piccolo di me, però esperienza non è che ne aveva granché, gli ho detto no, prenditi la strada. Poi gli davo del tu, prendi la stadia sabato, ti prendi la stadia, tu che sei geometra, prendi la tua stadia. E io leggo, faccio il geometra io adesso al posto tuo. Cazzo, rimasto ancora così, c'era la gente che stava guardando e lui per non farci vedere che stavo sbagliando, l'ha fatto. E detto, beh, adesso cosa mi dici? Ragione ho, già io che devo andare a lavorare io. Mi sono gettato le spalle e ne sono andato. Ma infatti quello è anche, sì, non avere rispetto da una persona con molta più anzianità lavorativa. Cioè, ma quando mai, adesso quando mai uno deve prendere, non è neanche questione di giovane coso, che poi dipende anche da con chi ha avuto a che fare con questo, ci sono tante cose da vedere, però credo che il giorno si sia trovato male. Credo che non si sia trovato male. Beh, per quanto riguarda il carico, sì, l'autista deve decidere come mettere il carico, però deve essere anche l'operaio che elabora i pezzi, che manda in costruzione i pezzi. Per esempio, se io facciamo un esempio che costruisco, che metto in opera 10 metri di linea, diciamo 10 metri di tubo da 32 pollici, no? O 12 pollici, facciamo, e so che quel tubo da 10 metri pesa 80 quintali. Se io ti dico, tubista, che quel tubo pesa quel tanto lì, e poi E tu sbagli caricando, succede qualcosa. Ci sono tante cose a vedere. Il tubista ti ha dato i pesi specifici del coso. Poi ci sono tante... Sì. Mi capisci cosa ti voglio dire, no? Che le responsabilità poi sono... Conoscendo le cose, le responsabilità vanno da una mano all'altra. Vanno da una mano all'altra. Vabbè, dai. Comunque il mondo del lavoro oggi sta andando a complicarsi. A complicarsi perché, guarda, stavamo parlando con Franco di... che nessuno vuole fare più l'operaio, nessuno vuole fare più lavori manuali, eh? Oggi tutti sono, oggi chi più può stare attaccato al computer e dare indicazioni di come fare il lavoro è migliore. Alla fine poi non si capisce più niente per quello, perché persone con esperienza, persone che hanno esperienza sul campo non ce ne sono più, non ce ne sono più. E di questa cosa noi ci renderemo conto tra una ventina d'anni di dove stiamo andando a finire con, per quanto riguarda il mondo manufatturiero. Sì, ma questo è scontato. Io mi ricordo quando ero ragazzino che mio padre addirittura, tramite un amico che aveva un muratore, stava costruendo una casa a Latte Dolce e gli ha detto: prendi mio figlio, prendete una mano. Ma non ne ho bisogno, prendi mio figlio, prendi a lui, fregate, no? Addirittura quasi stavo andando gratis per fare la gavetta, giustamente, no? Però questo qua mi ha preso il buon occhio perché mi ha visto lavorare, poi io ero la classica persona che non volevi fare brutte figure a tuo padre, quindi eri sempre andelli, torrendi e vende. Infatti mi dicevo: calmati, cavolo, non c'è bisogno di correre così tanto. Non vedi il ponteggio del muratore che è curvato, c'è la pancia in giù, basta non mettere altri blocchetti, se no fai cadere. Io lo carichetto perché poi, sai, l'inesperienza, portavi cemento, blocchetti, perché un medicente parlava a casa, quello la sento a me, quindi non glielo voleva mancare i blocchetti, io ti consiglio. Anche dove li avevi messi, anche in tasca. Si diceva: oh, cazzo, mi vai cacci tu, mi... Allora dimmi tu quando parli, aveva preso di simpatia così, allora mi dava, adesso non mi ricordo quanto, però mi pagava, stavo bene anche. Io mai mi sarei aspettati, cioè a fine settimana, perché lui pagava a fine settimana, mi metteva questo malloppo in mano, che cosa è questo qua, sotto lì? Questa è la tua paga, e da oggi tu lavori con me, io mi voglio virù. Sì, perché poi quando stai bene con, diciamo, col tuo maestro è un lusso, perché poi se ti tratta bene, diciamo, la giornata di lavoro fila alla grande. No, noi, io ti posso dire una cosa, a me la mia prima esperienza lavorativa è stata scaricare il camion, che poi era un Fiat 110 della torrefazione di Porto Torres, ma avevo 12 anni e andavo sempre a prendere il caffè, mia nonna mi mandava sempre a prendere il caffè da macinare alla torrefazione. E un giorno stavano scaricando, ma io se tu me lo chiedi ancora oggi, io non so perché l'ho fatto, e gli ho detto: mi volete a lavorare? Cioè, ma un ragazzino di 12-13 anni avevo. E il signor Giuseppe, il suo buon'anima, ha detto: se vuoi venire a lavorare, vieni a lavorare. caspita, prendo, porto il caffè da nonna. E gli dico no.